Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Giacobbe di Academy 2 per presentare il film Minari di Lee Isaac Chung al cinema da lunedì 26 aprile 2021. Ben trovato. Grazie mille dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Riaprono le sale e c'è questo film. Raccontiamolo un po' a chi ci ascolta. Indubbiamente è stata una circostanza che a noi ha fatto molto piacere, poter far coincidere la riapertura, seppur graduale, delle sale italiane con un nostro film al quale teniamo molto e che avevamo tenuto in caldo proprio nella speranza di poterlo presentare anzitutto sul grande schermo, perché mai come altri titoli è un film che indubbiamente viene valorizzato dalla proiezione cinematografica e dalla visione sul grande schermo. È un film che ha, diciamo, una carriera importante perché già al Sundance dell'anno scorso aveva avuto il premio del pubblico e quindi era già arrivato alla nostra attenzione, poi era stato da noi acquisito e poi appunto ha avuto le 6 candidature agli Oscar, prima ancora ha vinto il Golden Globe per miglior film straniero e infine poi l'altra sera abbiamo visto il premio alla miglior attrice non protagonista. La curiosità appunto che come Golden Globe per una questione di regolamento lo ha visto protagonista come film straniero, mentre invece nella votazione per gli Oscar concorreva come miglior film in assoluto, quindi non nella categoria dei film stranieri, ma è un cavillo di regolamento del Golden Globe rispetto agli Oscar. Allora, il film è chiaramente un film prodotto da Brad Pitt, quindi un film americano a tutti gli effetti, anche se ha un regista e gli interpreti coreani benché di seconda generazione, nel senso che sono tutti trapiantati negli Stati Uniti, sia il regista sia i protagonisti del film, ma anche la storia è la storia appunto di una famiglia coreana trapiantata negli Stati Uniti ed è la storia del classico sogno americano di emancipazione, di voglia di nuovi orizzonti. Senza voler fare spoileraggi, semplicemente la voglia di ritrovare una seconda occasione andando a vivere nel cuore dell'America, nell'Arizona, in mezzo ai campi dove coltivare quelle verdure, quei frutti dell'agricoltura che sono poi quelli che mancano ai cittadini coreani negli Stati Uniti perché meno diffusi e meno coltivati. Allora il sogno è proprio quello di creare un'azienda agricola a disposizione degli innumerevoli cittadini coreani e dei ristoranti coreani negli Stati Uniti e quindi con questo appunto avere una seconda occasione dopo un primo periodo di questa famiglia che viveva di un lavoro decisamente meno interessante rispetto a quello che invece sognano di fare. E poi ci sono ovviamente le vicissitudini familiari e le difficoltà di ogni famiglia economiche, di ambientazione nella nuova situazione e questa nonna che li raggiunge, va a vivere insieme a loro e che poi la vera protagonista del film e non per niente ha avuto poi anche il premio Oscar proprio perché è un personaggio indimenticabile e simpaticissimo, ma sono tutti molto bravi. Tutto il cast, dal bambino, dal figlio piccolino e alla nonna, sono veramente dei personaggi che restano nel cuore perché il film è veramente molto coinvolgente ed emozionante. Ecco, oltre alla prova degli attori e alle emozioni, cosa vi aveva convinto maggiormente di quest'opera? Ho fatto una scelta emozionale quando abbiamo acquistato il film, in realtà al di là appunto della vicenda che ripercorre un po' quella del sogno americano che è comune a tante etnie diverse negli Stati Uniti, ne venivamo dal successo di Parasite e tra noi ci siamo detti no, un'altra famiglia, un'altra storia coreana, sembra che siamo abbonati a queste cose, però al di là di questa battuta è veramente un film che ha un respiro coinvolgente, ecco, quindi devo dire dire che parliamo comunque di un regista che ha veramente dei numeri. Ora, Lee Isaac Chung non lo conoscevo assolutamente, ma devo dire che la prova registica è assolutamente di ottimo livello. Certamente quest'anno è andato a scontrarsi con una regista cinese e per di più donna che ha fatto Nomadland, e quindi in qualche modo era una partita persa già dall'inizio nella gara con gli Oscar. Però il film ha veramente dei numeri, e soprattutto quando acquisti un film per il pubblico italiano ti metti anche un po' dalla parte dello spettatore, quindi ci è sembrato che fosse un film che poteva lasciare veramente dei buoni sentimenti al pubblico, come ho detto prima, scaldare un po' il cuore del pubblico che andava a vedere, e in questo momento ce n'è soprattutto bisogno. La riapertura delle sale, nel momento in cui si vuole sottolineare come l'esperienza in sala sia un qualcosa di emozionante rispetto al proprio salotto, ecco, questo è il film giusto. Che tipo di uscita sarà? Sarà senz'altro un'uscita graduale, nel senso che sappiamo che alla riapertura la percentuale degli schermi che sono partiti il primo giorno è indicativamente intorno al 10-15%, anche perché normalmente le sale, i film partono il giovedì, e quindi una partenza di lunedì era abbastanza anomala, però era anche il giorno dopo gli Oscar, quindi è una data simbolica che molti hanno colto, e quindi molti cinema ne hanno approfittato già dal primo giorno con dei nomi illustri, a iniziare da Nanni Moretti, che ha riaperto nel suo Sacher di Roma proprio con questo film, o all'Anteo di Milano. Quindi diciamo il cinema di qualità, il cinema d'essè principali italiani hanno riaperto e hanno scelto Minari come portabandiera. Speriamo che insomma il film abbia un suo percorso, possa ampliare il numero delle sale, anche grazie credo a un passaparola che non potrà che essere positivo. Minari di Lee Isaac Chung al cinema da lunedì 26 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Giacobbe di Academy. Un in bocca al lupo, a risentirci. Grazie, presto. Grazie a tutti voi, appuntamento al cinema per tutti. Grazie. Con Roberto Salinas, regista del documentario Cuban Dancer, in anteprima il 29 aprile 2021, giornata internazionale della danza, e poi uscita evento il 3 e 4 maggio. Roberto, ben trovato. Buongiorno, ciao. Come lo presenteresti questo lavoro? Ci sono tante definizioni possibili per questo film. Da un lato è la classica struttura del coming of age, no? Del romanzo di formazione, perché seguiamo comunque il lungo percorso prima di saluto, addio di questo ragazzo e della sua famiglia alla terra natia, a Cuba, e poi il suo percorso di integrazione negli Stati Uniti, che passa prima per la Florida, per una prestigiosa scuola di danza in cui lui poi approda e continua i suoi studi, e poi approda a San Francisco per il suo arrivo alla prestigiosa compagnia del San Francisco Ballet. Quindi da un lato ha veramente i classici elementi della storia di formazione, dall'altro è in tutto e per tutto un film di danza, in cui usiamo la danza non solamente come un oggetto dell'osservazione documentaristica in questo caso, ma anche come uno strumento comunicativo per far passare appunto il più possibile le emozioni, l'intimità dei nostri protagonisti. Quindi è un po' un mix di queste due cose. Come nasce? Da un mio interesse, curiosità, amore per Cuba, questo è un luogo in cui ho passato molto tempo. Nel 2015 io mi trovavo lì e abbiamo cominciato a ragionare insieme alla coautrice e coreografa di questo lavoro, che è una coreografa cubana, si chiama Laura Domingo Agüero, sulla possibilità di raccontare un momento di transizione che in quel momento sembrava imminente, di un possibile cambio nei rapporti fra gli Stati Uniti e Cuba, quando c'era Barack Obama presidente degli Stati Uniti e si parlava di una possibile apertura e cambio radicale. Noi ci siamo voluti concentrare appunto sul mondo dell'istruzione, sulla formazione nelle arti, che è un'eccellenza a Cuba, e in particolare in questo caso sulla realtà della Scuola Nazionale di Balletto dell'Havana, che è un luogo splendido che da molti anni ormai, fondato dalla storica ballerina Alicia Alonso, forma grandi ballerini di balletto classico. Poi da lì piano piano il cerchio si è stretto sulla figura di questo giovane, Alexis Francisco Valdez Martinez, che un po' incarnava tutti quei valori che noi stavamo cercando di raccontare, E poi casualmente, insomma, il suo percorso ci ha portato anche a spostarci da Cuba agli Stati Uniti, e quindi ci ha dato anche l'occasione di fare un po' un confronto tra quello che la società cubana, la vita cubana, il sistema di educazione cubano poteva offrire a un ragazzo che si formava in quegli anni e che cosa avrebbe offerto contemporaneamente invece la società americana, il tanto celebrato sogno americano, a questa famiglia che appunto lascia tutto per fare un po' un salto nel buio, mossi dall'unica intenzione, dalla forte motivazione di riunificare la famiglia con una sorella di Alexis che da molti anni ormai viveva già negli Stati Uniti. Che esperienza è stata seguire una persona in questo lungo arco di tempo? È stato interessante, e a differenza di altri lavori che avevo fatto, in questo caso si trattava di qualcuno che guardava in avanti e non indietro. Normalmente io mi sono spesso occupato di persone che un po' riflettevano sul loro passato, su una vita vissuta spesso in trincea o in prima linea. In questo caso invece si è trattato di guardare a qualcuno che la vita la stava appena cominciando, e quindi guardare verso il futuro, in questo caso con molto ottimismo, devo dire, ed è stato rinfrescante per me, importante, e poi ha soddisfatto alcuni desideri miei come regista, proprio come direttore della fotografia, come uomo con la macchina da presa, perché mi ha permesso appunto di filmare tanto tempo il mondo della danza, estremamente dinamico, vitale, e quindi è stato per me estremamente soddisfacente e anche molto divertente fare questo lavoro. Nonostante tutte le difficoltà, è un ragazzo fortemente legato a Cuba. Assolutamente sì, ed è un carattere che tutti i cubani hanno, insomma. Chiunque vada via da Cuba non riesce mai veramente a staccarsi. C'è un amore profondissimo per quella terra, spesso appunto anche conflittuale. Spesso ci sono tante ragioni, a volte politiche, a volte economiche, per lasciare l'isola, ma nessuno mai l'abbandona veramente, tutti prima o poi vogliono tornare. È una coproduzione internazionale? È una coproduzione internazionale fra Italia, Canada e Cile, abbiamo anche un partner negli Stati Uniti, la società Micro Documentaries, poi c'è Film Option International che sono canadesi, e Valdivia Film cileni, e ovviamente Indica, società di produzione torinese. Quindi sì, è uno sforzo internazionale. D'altra parte ha senso per un lavoro del genere, che deve guardare necessariamente a un pubblico giovane, quindi anche un pubblico europeo, un pubblico mondiale, però anche avere uno sguardo importante e privilegiato per il pubblico americano, dove probabilmente questa storia ha anche più senso e più impatto sul pubblico. Che tipo di distribuzione avete pensato? Il film per fortuna sta avendo una bella vita, un bel cammino, nel senso che abbiamo cominciato ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma, lì c'è nella città, poi però siamo andati avanti con diversi festival internazionali, fra cui Miami, San Francisco, Vision Durel, abbiamo già collezionato qualche premio, ci fa molto piacere perché è un riconoscimento del fatto che il film, specialmente poi negli Stati Uniti, ha avuto un discreto successo, perché evidentemente risuonano questi temi nelle comunità latine negli Stati Uniti. Adesso siamo felicissimi di poterlo portare in sala e di capitare nel momento in cui ce la facciamo effettivamente ad andare in sala e vederlo sul grande schermo di nuovo, e poi appunto vediamo come andrà avanti ancora il cammino, che di fatto è abbastanza appena cominciato, quindi ci saranno altri festival di questi giorni e l'annuncio della selezione a Docs Barcellona e a Monaco, al Doc Fest di München. E quindi speriamo che vada ancora avanti sia nei festival internazionali che nazionali, e poi chissà, vedremo se poi più avanti sbatterà su qualche piattaforma di streaming. Il documentario Cuban Dancer, in anteprima il 29 aprile, giornata internazionale della danza, è uscita a evento il 3 e 4 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Salinas. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, a presto. Con Michele Aiello, co-regista del documentario Un giorno la notte, in streaming da martedì 27 aprile 2021. Ben trovato. Ciao, grazie dell'accoglienza e ben trovato anche a te. Ci presenti questo lavoro? Un giorno la notte è un documentario che è nato da un laboratorio di video partecipativo. Il protagonista che ha partecipato a questo laboratorio, quindi alla fine del laboratorio gli è stato proposto di raccontare anche la sua storia proprio in un film, e quindi non è solo protagonista del film ma è anche coautore. Ed è una cosa importante perché nel film ci sono due punti di vista: uno il suo, come nella forma di autonarrazione, e uno di me e del co-regista Michele Cattani, che abbiamo usato uno sguardo osservativo, però molto vicino a lui. E la storia parla appunto di questo ragazzo, Seini, che ha una malattia agli occhi che si chiama retinite pigmentosa, una malattia molto rara. Lui è gambiano e quando aveva 16 anni è partito dal Gambia per trovare una cura in Italia, che poi non ha trovato. E questo non è raccontato nel film, è raccontato a voce in un passaggio, e la storia del film parla praticamente del suo scoprire come prepararsi a un futuro in cui diventerà cieco, perché questa malattia è degenerativa e incurabile. L'idea di farne un documentario era già insita nel laboratorio o è stata uno sviluppo vostro? È stato uno sviluppo nostro, perché quando facciamo i laboratori di video partecipativo l'obiettivo è rendere registi i partecipanti, e quindi bisognava distinguere le due fasi. Noi, mentre conducevamo il laboratorio, non c'era proprio l'obiettivo di sviluppare un film, abbiamo fatto in modo che il gruppo di partecipanti sviluppasse i loro cortometraggi. Al termine, la storia di Seini era particolarmente forte e gli abbiamo chiesto di sviluppare un film ex novo. Il corto di Seini si può vedere, infatti, il corto di laboratorio, ed è sulla nostra piattaforma partecipa.zalab.org nella sezione video partecipativo, e parla del suo legame con lo sport e col baseball per ciechi. Come avete deciso di raccontarlo? Abbiamo deciso di permettere a lui di avere una grossa libertà con una videocamera, e quindi lui si racconta nel film, racconta la sua storia, fa delle cose che non svelo ma che dimostrano il suo percorso nell'accettazione della malattia e nell'apprendimento di alcune cose che sono poco conosciute del mondo dei ciechi. E dall'altra parte noi l'abbiamo seguito molto da vicino, cercando di immergerci nella comunità attorno a lui, quindi il baseball per ciechi, l'istituto dei ciechi Cavazza, dove ci sono dei corsi per l'avviamento lavorativo, anche i suoi amici, quindi ci siamo provati proprio ad avvicinare a lui e a intrecciare questi due punti di vista, il suo soggettivo e il nostro esterno. Sarà in streaming il 27, una giornata gratuitamente, e poi sulle vostre piattaforme. Che tipo di distribuzione avete pensato adesso che c'è la possibilità che riaprano sale? Sì, allora l'idea adesso è quella di lanciarlo online e poi sfruttare tutta l'estate almeno per le arene estive, e capire poi da settembre se ci sarà qualche spazio per una distribuzione più classica. La data che hai detto tu, il 27 aprile, è importante per noi anche perché, anche un po' per la prima volta, lanciamo il film solo con l'audiodescrizione, cioè ci sarà la possibilità di vederlo, però al posto della colonna sonora classica di un film sarà integrata e mixata con l'audiodescrizione, che generalmente è l'ausilio con cui un non vedente guarda un film. E per noi, dato il tema, dato l'approccio partecipativo del film, quindi vorremmo avere un grosso coinvolgimento della comunità dei non vedenti nell'usufruire del film, l'abbiamo curata tanto, abbiamo realizzato l'audiodescrizione insieme a Big Bang, una cooperativa di Bologna che la produce con un vedente e un non vedente insieme nella stesura del testo, e poi abbiamo fatto registrare la voce a Andrea Pennacchi, l'attore teatrale conosciuto soprattutto per la parte del Poiana a Propaganda Live, a cui abbiamo dato anche un tono caldo, quasi da narratore, quindi alla fine diventa quasi un audiodocumentario, però rimanendo presente la traccia video è un'esperienza che si può fare per capire un po' come un non vedente guarda il film, ma anche un avvicinamento, una visione diversa. Sarà da sperimentare. C'erano anche idee più radicali che pensavano a una distribuzione del film solo con la versione audio descritta. Poi abbiamo pensato che fosse forse anche un po' estremo non consentire la doppia opzione, quindi lo lanciamo gratuitamente con l'audiodescrizione per il primo giorno, e il secondo giorno sarà in doppia versione anche per i vedenti, diciamo così. Che impressioni hai ricavato da questa storia? Una cosa molto interessante per me è che mentre lo facevo mi sono accorto che stavo conoscendo io tanto quanto Semi il mondo dei non vedenti, un mondo che non ero mai entrato in contatto prima, e quindi per me il film è un po' un'introduzione in questo mondo da parte dello spettatore. Non è un film in cui si empatizza solamente col lato della malattia di Semi, che è molto tragica e quindi può essere interpretata in modo molto cupo, e questo è un film in cui lo spettatore ha segna la scoperta di alcune cose e quindi allo stesso tempo le scopre lui. Ed è per me la scoperta di un mondo molto vivace, molto ricco, con una grande dignità, e questo per me è la cosa più importante, che spero arrivi. Ci lasci tutti i riferimenti web? Si può vedere il film su partecipa.zalab.org o su miocinema.it. Ci potete seguire su www.zalab.org, ovviamente. Il documentario è stato fatto anche in collaborazione con Arca di Noè, la cooperativa che aveva in accoglienza Semi all'inizio del film e che ha sede a Bologna. Un giorno la notte, in streaming da martedì 27 aprile 2021, un saluto e un ringraziamento al coregista Michele Aiello. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Viva il lupo e a risentirci. Ciao, in bocca al lupo anche a voi. Il regista Antonio Pisu sul suo film Est, Dittatura Last Minute, al cinema da lunedì 26 aprile 2021. Antonio, ben trovato. Ben trovati, grazie, grazie. Come lo descriveresti questo lavoro? È un road movie intanto sofferto anche per il periodo in cui viviamo. Dovevamo uscire in sala il 5 novembre, sappiamo tutti come è andata a finire, quindi abbiamo aperto con grandi soddisfazioni le giornate degli autori a Venezia, abbiamo vinto festival in tutto il mondo, New York, Istanbul e tanti altri, e poi finalmente riusciamo a farlo vedere questo film, quindi sono molto contento. È un road movie appunto ambientato nell'89 ed è un avventuroso viaggio che compiono casualmente tre ragazzi di Cesena che si ritrovano all'interno della dittatura di Ceausescu, di cui pochi sanno. Com'era partito tutto? Appunto da questa storia che è vera, che è la storia di Maurizio Paganelli, Andrea Riceputi e Enrico Boschi. Maurizio Paganelli, insieme a Paolo Rossi Pisu della Genoma Film, è uno dei produttori, e quindi è stato lui a conoscerci e a voler, dopo aver visto il mio primo film, che sceneggiassi la sua storia vera e la rendessi un film. Quindi è nato tutto in maniera molto casuale, e il promotore di tutto questo lavoro è appunto Maurizio Paganelli, che è anche uno dei protagonisti reali della storia. Com'è stato rifar vivere la fine degli anni Ottanta nell'Est Europa? È stato difficilissimo. Il film è un road movie e si svolge tra l'Italia, l'Ungheria e la Romania. È stato più semplice ricreare qui l'89 piuttosto che là, perché là veramente è cambiata tantissimo la città, è cambiata tantissimo proprio la struttura sia della Romania che dell'Ungheria, e quindi è stato un grande lavoro di ricerca, è stato quasi un anno di location scouting per trovare i luoghi e cercare di percorrere il più fedelmente possibile tutta la strada che i protagonisti fecero originariamente, e quindi è stato un lavoro lungo, però sono molto contento del risultato. Parliamo sempre di film ovviamente a basso budget, non siamo Hollywood. Che cosa ti aveva incuriosito della loro esperienza? Sicuramente ho adorato il contenitore, nel senso, tre ragazzi, immaginatevi oggi, ecco, cellulari e tutto quanto, conosciamo più o meno la situazione di quasi tutti i paesi, o se vogliamo possiamo informarci, mentre all'epoca, con le scarse conoscenze che c'erano, non si sapeva quasi nulla di ciò che accadeva oltre la cortina di ferro. Quindi il fatto che tre ragazzi, e non tre adulti, quindi tre ragazzi anche un po' ingenui, anche un po' semplicemente spensierati, con la voglia semplicemente di andare a fare una vacanza, si ritrovassero casualmente a varcare quella che è poi una linea immaginaria molto vicino da noi, e a ritrovarsi in una condizione totalmente diversa rispetto a quella che viveva in Italia nel boom economico degli fine anni Ottanta. Ecco, proprio in questo senso, che taglio hai voluto dare al film? Una domanda difficile, perché il film è mischiato sia a immagini di finzione, quindi fatte cinematograficamente, sia a immagini reali e documentaristiche fatte proprio durante quel viaggio, non tutte, però diciamo una grossa parte. E attraverso l'uso della videocamera che uno dei protagonisti ha, abbiamo modo di avere questa sorta di, poi di fatto come se fosse un filmino delle vacanze, una sorta di documentario mischiato al film, lo rende molto realistico, soprattutto nella credibilità di certi momenti. Come genere però è un film, non è un documentario, perché comunque la storia è romanzata, c'è una struttura narrativa proprio cinematografica e queste immagini di repertorio sono solo una piccola parte all'interno del film. E questo vostro viaggio che impressioni ti ha lasciato? Da cosa nasce cosa? Nel senso, noi in Genoma Films siamo piccolini, siamo nati da pochi anni, prima con Nobili Bugie e adesso con questo film ci stiamo facendo notare molto e di conseguenza, grazie a tutto questo percorso, abbiamo la possibilità poi di fare tanti altri lavori che abbiamo in cantiere, quindi sono molto felice, sta diventando una cosa vera, non è più solo un sogno nel cassetto, ma sta iniziando a diventare qualcosa che stiamo realizzando nel concreto. A questo punto spendiamo anche qualche parola sull'esperienza Genoma. Nasce dalla scoperta di avere un fratello che si chiama Paolo Rossi, Pisu appunto, che ha avuto quest'idea di creare una società cinematografica inizialmente per far fare un film a Raffaele, nostro papà comune. E poi, appunto, come dicevo prima, con le sue grandi capacità imprenditoriali sta creando una società di produzione e distribuzione vera e propria che in soli 4 anni ha già raggiunto questi risultati e riesce ad inserirsi in un mercato che, come potete immaginare, è molto complesso e molto selettivo. Siamo solo all'inizio, abbiamo tanti progetti in cantiere, nel prossimo film si intitolerà Nina dei Lupi, tratto dal romanzo di Alessandro Pezzante, un film distopico di fantascienza. Genoma sta producendo anche un film su Gianni Schicchi con la regia di Damiano Micheletto. Insomma, tante cose in cantiere, vi terremo aggiornati e sentirete parlare di noi, ecco, e non è una minaccia. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Noi abbiamo una pagina ovviamente Facebook, Genoma Films, abbiamo una pagina YouTube, abbiamo tutte le pagine che volete sui social più famosi, tutti conoscono. Seguite Genoma Films, oppure seguite me Antonio Pisu, avete tutte le notizie del film. In ogni caso il film uscirà su tutte le piattaforme, lo potete trovare dal 5 febbraio, on demand, quindi al cinema non ci siete venuti, guardatevelo comodi a casa vostra. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Pisu. Un abbraccio, grazie, in bocca, grazie, al lupo, sì. A risentirci presto. A presto, un bacione, ciao. Il regista Antonio Pisu sul suo film Est, Dittatura Last Minute, al cinema da lunedì 26 aprile 2021. Il regista Peter Marcias sul suo film documentario Nil de Jotti, Il tempo delle donne, in uscita in sala lunedì 26 aprile 2021. Peter, ben trovato. Ciao a tutti, grazie, eccomi. Come lo presenteresti questo lavoro? Ma intanto Nil de Jotti, Il tempo delle donne è un film documentario su una grande figura femminile del Novecento, una persona come Nil de Jotti che ha lasciato il segno non solo nella politica ma anche nel tessuto sociale, una persona che oltre ad aver lavorato in Parlamento ha combattuto al fianco delle donne e al fianco a tutti i cittadini italiani per cambiare in meglio questo paese. Come è nato il progetto? Io era da anni che covavo comunque l'interesse di raccontare un personaggio femminile. Tu sai, ho raccontato Liliana Cavani tanti anni fa, Piera degli Esposti, e è venuto naturale raccontare Nil de Jotti, anche perché sono un grande appassionato di politica, non sono un politologo perché ho poi studiato anche cinema eccetera, però ho sempre avuto questa grande passione per la politica e lei comunque è una donna, come ho detto prima, che ha lasciato veramente il segno. Dunque da lì l'idea di coinvolgere Paola Cortellesi, che a sua volta 10 anni prima aveva portato a teatro un bellissimo testo di Sergio Claudio Ferroni intitolato Leonille. Dunque, sai, una serie di combinazioni, Paola Cortellesi, la mia passione alla politica, Nil de Jotti e soprattutto i grandi repertori dell'AMOD, della Cineteca, Rai, Istituto Luce, insomma, grandi pezzi dell'Italia, insomma, di tanti anni fa. Su cosa hai voluto mettere l'accento rispetto alla figura della Jotti? soprattutto sul percorso che lei ha fatto con le donne, cioè un lavoro sull'emancipazione e sulla struttura, cioè coordinarsi appunto col genere femminile, ma diciamo, ripeto, allargando a tutti i cittadini e lavorando su nuove leggi, su nuove situazioni che poi ci hanno portato all'Italia di oggi. Infatti non a caso il film inizialmente era intitolato soltanto Gilde, perché la mia idea era di raccontare solo lei, però poi studiando, lavorandoci, facendo delle interviste, hanno collaborato al film tantissime, tra personaggi della cultura, politici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è venuto fuori anche Il tempo delle donne, che non è un sottotitolo. C'è un buon materiale d'archivio a disposizione rispetto al periodo storico? Io mi sono trovato tantissimo materiale, giustamente ho fatto un bel lavoro di ricerca accompagnato dai miei collaboratori, però ti dico, c'è tantissimo materiale soprattutto sulla lotta che hanno fatto le donne. Nilde Iotti tutto sommato era sempre presente in queste grandi manifestazioni, in questi grandi dibattiti sulla donna. La cosa che mi ha sorpreso è che c'è tanto anche materiale negli archivi, che ho Berlinguer e tanto altro. Infatti nel finale del film c'è un suo comizio elettorale che non sembra un comizio elettorale, ma è una sorta di lascito per noi cittadini. Hai fatto qualche scoperta che ti ha sorpreso? Ho approfondito di più la sua relazione con Togliatti, una relazione in quegli anni discussa soprattutto all'interno del Partito Comunista. Mi ha sorpreso, devo dirti la verità, la dolcezza e la fragilità a volte di Nilde Iotti, perché io fin da piccola avevo questa sua immagine molto severa, una donna molto austera, precisa, eccetera. Invece, lavorando sulle sue parole, sulle lettere d'amore che si scambiava con Palmiro Togliatti nei primi anni della loro relazione, ho capito che era una donna veramente dolce, fragile, insomma, come tutti, cioè una persona normale. Invece ci dava quel senso da piccolo che fosse una donna un po' più severa, forse, un po' più dura. Vista anche la testimonianza, la presenza di Paola Cortellesi, di quello spettacolo, cosa avevi apprezzato? Avevo apprezzato tantissimo il dono di Paola di calibrare le parole. Lei è sempre così attenta, che ci lavora, eccetera. Dunque, su quel testo di Perroni, lei aveva soltanto una sorta di leggio, dunque era voce, cuore, ecco, e dunque un po' mi ha fatto pensare che doveva essere lei, il nostro cicerone che ci portava all'interno, che doveva evocare Nilde Iotti. Infatti Paola interpreta se stessa, che sta preparando uno spettacolo teatrale su Nilde Iotti. Un saluto e un ringraziamento al regista Peter Marcias. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a voi come sempre, grazie. Il regista Peter Marcias sul suo film documentario Nilde Iotti, Il tempo delle donne, in uscita in sala lunedì 26 aprile 2021. Il coregista Jaime Barducci sul documentario Quale Patria, in streaming gratuito dal 27 aprile al 1 maggio 2021. Jaime, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato, grazie. Raccontaci di questo progetto. Beh, il progetto nasce alla fine del 2017, è un progetto di recupero della memoria, quindi nasce dalla volontà di tirare fuori dai cassetti tante testimonianze raccolte negli anni Ottanta qui nel territorio romagnolo da parte dell'Istituto Storico della Resistenza, e sono interviste a partigiani che allora erano ancora vivi e vegeti. Abbiamo iniziato da lì per raccontare la storia della resistenza sul nostro territorio, quindi il film narra le vicissitudini, le vicende che appunto il nostro territorio ha vissuto dal 25 luglio del 1943 fino al 20 ottobre del 1944, che poi è il giorno della liberazione di Cesena. Abbiamo voluto attualizzare questo, il discorso della resistenza, quindi abbiamo intrecciato il racconto storico con la vicenda personale del protagonista, che è Gianni Ravegnani, che nel 2008 e nel 2009 è stato nella Striscia di Gaza a fare il clown dottore, e quindi ha vissuto una sua personalissima esperienza di resistenza. Ecco, questo è un po' in sintesi il lavoro che abbiamo fatto, un lavoro sugli archivi e per appunto dare voce alla memoria. Di quante voci si compone questo quadro? Sono diverse le voci che compongono questo grande affresco della resistenza. Sono 4-5 i partigiani che raccontano la loro storia, ci sono le poesie di Gianni Ravegnani, appunto, che racconta la sua storia a Gaza, e poi ci sono materiali che arrivano dai diari che persone comuni tenevano durante il passaggio del fronte. Ecco, a questo proposito, dai diari e dalle interviste d'archivio, quali sono gli elementi che più ti hanno impressionato? Sicuramente la grande semplicità che c'è dietro ai gesti che sono stati compiuti. Volevamo evitare di cadere nella retorica, volevamo evitare di rappresentare partigiani come degli eroi moderni, volevamo rappresentarli per quello che erano, insomma, persone normali che si sono trovate in un determinato momento storico costretti a dover fare una scelta, e quindi è questo che secondo me è la cosa più interessante, la semplicità di queste testimonianze e questa semplicità che le fa essere molto forti, riescono insomma a trasmettere una forte emozione. Che dimensioni ha avuto la resistenza nel Cesenatico? È una dimensione importante, nel senso che vicino a noi insomma c'era la linea gotica, e quindi questo è stato un territorio caldo, un territorio in cui si è combattuto molto, un territorio che ha visto nascere gruppi gappisti, gruppi partigiani, insomma è stato effettivamente una dimensione di popolo, una dimensione piuttosto ampia. Un saluto e un ringraziamento al coregista Jaime Barducci. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, grazie, a presto. Il coregista Jaime Barducci sul documentario Quale Patria, in streaming gratuito dal 27 aprile al 1 maggio 2021. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per sapere le novità della settimana sulla piattaforma. Ciao Paco. Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Anzitutto direi che prima delle novità della piattaforma direi di festeggiare tutti, o almeno provare a farlo, la notizia delle riaperture delle sale, sperando che non sia una parentesi ma possa ridare ossigeno sia a tutte le sale e gli spazi sociali e culturali, ma anche ovviamente alle produzioni e distribuzioni indipendenti. Noi, nonostante ci occupiamo anche dell'on demand, come sapete bene, siamo consapevoli del valore assoluto che ha il luogo fisico, e quindi speriamo presto di tornare anche noi in sala con i nostri film, anche con Milky Way, che si merita ancora sicuramente tanta, tanta strada da fare. Siamo finiti nei giorni scorsi con la newsletter mensile, e adesso vi farò alcune segnalazioni. Anzitutto abbiamo segnalato la pagina dedicata alla giornata 25 aprile e in generale alle varie forme di resistenze. È una pagina dedicata dove noi abbiamo racchiuso e raccolto tante opere che abbiamo in catalogo legate più o meno direttamente al tema della resistenza partigiana. È un tipo di raccolta che noi oggi siamo in grado di fare, anche ovviamente legato al fatto che ormai ad oggi il nostro catalogo è molto vasto, siamo oltre le 600 opere in catalogo, quindi abbiamo la possibilità anche di raggrupparli secondo aree tematiche o filoni narrativi, e quindi abbiamo deciso di fare questa release raccogliendo tutti i lavori legati al tema 25 aprile e resistente, e li trovate ovviamente sulla nostra piattaforma. E poi vi segnalo in particolar modo tre anteprime molto importanti e molto belle che abbiamo avuto modo di accogliere in catalogo. La prima è 387, un documentario potentissimo e urgente, visto anche purtroppo, ahimè, la nuova strage nel Mediterraneo che c'è stata pochi giorni fa. Il documentario 387 racconta della ormai tristemente conosciuta strage più grossa che c'è stata in questi ultimi anni, nel 2015, quando oltre 800 persone morirono in mare o a largo della Libia. È un film non solo estremamente potente, che fa luce anche più in dettaglio su ciò che accade nel mare, anche perché purtroppo spesso le informazioni che abbiamo sono legate a quella modalità mordi e fuggi da informazioni sul web, e chiaramente è molto faticoso capire in profondità. E il film secondo me è molto forte anche perché va a ricostruire, attraverso anche l'aiuto di un team forense, quello che è la vita e la storia di queste persone che purtroppo non ci sono più, nel senso che, nonostante il titolo è un numero, il film fa esattamente l'operazione opposta, dà a ognuno di questi numeri un volto e una storia ben precisa. E questo secondo me è una cosa molto importante anche per tornare a umanizzare le narrazioni che mettiamo in campo relativamente ai processi migratori. Il secondo film, che abbiamo rilanciato proprio ieri, invece, è il bellissimo La macchia mongolica. La macchia mongolica è un film tra la regia di Pier Giorgio Fasotti, ma scritto a quattro mani con Massimo Zamboni, cofondatore dei CCCP e dei CFI, e racconta proprio il viaggio di ritorno di Massimo a distanza di 20 anni dallo storico viaggio con i CSI, parlo dell'album Tabula Rasa Elettrificata ovviamente, torna dopo 20 anni a ripercorrere le tappe di quel viaggio assieme alla figlia, oggi appunto ventenne, che fu concepita proprio durante quel viaggio. È un film chiaramente biografico, ma è, secondo me, in questi ultimi anni, soprattutto nei programmi di vedere, sono usciti tanti lavori sul taglio biografico che poi avevano la capacità di aprirsi anche a una serie di tematiche più ad ampio raggio, e questo è uno di quei film. Consiglio caldamente di vederlo, mi è piaciuto veramente tantissimo. E il terzo e ultimo che vi segnaliamo, invece, nel mese di novità e acquisizioni, è un film legato al filone ambiente e territori, che è una delle macro categorie della nostra piattaforma, e si chiama Pioggia sul viso. È la storia di Silvano De Giovanni. Io non conoscevo, perché non me ne intendo di questo settore, però è una figura molto conosciuta nell'ambito dell'arrampicata in montagna. Lui fondamentalmente è diventato famoso per aver raggiunto 33 vette oltre 3.000 metri nella sua carriera, in compagnia e senza ovviamente mai trasformare questo in sfruttamento, ma con delle modalità molto particolari che scoprirete nel film, della sua mula, che si chiama appunto Pioggia. E anche questo è un lavoro che è a metà tra il biografico e il viaggio, come la macchina mongolica. Non conoscevamo quest'opera, ci è stata proposta dai registi e devo dire che ci ha proprio colpito molto, ed è uno dei motivi perché abbiamo deciso di accogliere in catalogo. Ultimo ma non meno importante, vi segnalo che mancano ancora 19 giorni per l'esattezza per la campagna di coproduzione popolare del film Non mollare, cui siamo coproduttori assieme a Vofilm, dedicato alla storia e alla vita di Gaetano Salvemini, che potete trovare appunto tutte le informazioni o sulla nostra newsletter o direttamente sul sito di Produzioni dal Basso. Paco, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.